fatto, ma è successo. Ed era verità, creditila, che io mi la compì Gesù. Avia d'amato una giovane, e cupi a gire d'amore, ed ora si è fatta monaca, e mi resta un gran dolore. Ma non ti c'è colpa nudo, che ti c'è colpito sola, si deve ad alcun pensiero, ti ci devi rassegnare. Torna e meri mie tu, e c'è torno io a mannare, e di me si te fai monaca, o non te vuoi maritare. Per dompiti la donna righetta, ed amo fatto un sedile per donna righetta e don fidile. Oi donna righetta, oi cumula batisti, tu lasciassi a Don Fidile e giste te giudisti. Ed io quando passo spantico e me dispiero tutto, e guardando i tuoi garofali, me vena ruso giunto. O i tribunale infamo, iettami la sta sentenza, cade la riume vina, o sta barbara spartienza.